con la testa libera, senza nessun pensiero. Guardare il sole che scende sul mare per te. Questo mondo pazzo ci rende inquieti e sereni, ma non ci lascia mai vivere come vorremmo noi. Un gruppo di foglie che si perde nel vento e una via d'uscita che per adesso non c'è. Questa notte passerà, o almeno ci spero, per quel destino bastardo che sta dentro di noi, che sta dentro di noi. Noi dentro, noi fuori dalle feste importanti, noi dentro, noi fuori dalle stanze gelate, noi dentro, noi fuori, siamo solo cantanti, pescare sempre le carte sbagliate. Cercare il sogno, ma il sogno dov'è? Sbagliare indirizzo e arrivare da te. Il mondo, la strada, la fretta, il delirio e questa vita di merda che ci induce al martirio. Sulla strada che porta alle nostre illusioni, molto spesso ci siamo ritrovati da soli. Senza la tua mano che stringe la mia, questa notte assomiglia a una grossa bugia, a una grossa bugia. Noi dentro, noi fuori dalla stanza incensata, noi dentro, noi fuori dall'acqua gelata, dal vento, dal sole, dalla terra velata. Noi dentro, noi fuori come neve d'estate, noi dentro, noi fuori come rami nel vento. Noi dentro, noi fuori, senza neanche un lamento, sempre fermi qui, ma liberi di viaggiare. Noi dentro, noi fuori, non mi fai più volare, no. Noi dentro e noi fuori, noi dentro e noi fuori, noi dentro e noi fuori, noi dentro, noi fuori, noi dentro e noi fuori. Un gruppo di foglie che si perde nel vento è una via d'uscita che per adesso non c'è. Questa notte passerà, o almeno ci spero, per quel destino bastardo che sta dentro di noi, che sta dentro di noi, che sta dentro di noi, noi. Noi dentro, noi fuori dalle feste importanti, noi dentro, noi fuori dalle stanze gelate, noi dentro, noi fuori, siamo solo cantanti, pescare sempre le carte sbagliate. Noi dentro, noi fuori dalla stanza incensata, noi dentro, noi fuori dall'acqua gelata, dal vento, dal sole, dalla terra velata. Noi dentro, noi fuori come neve d'estate. Noi dentro e noi fuori come rami nel vento, noi dentro e noi fuori senza neanche un lamento, sempre fermi qui, ma liberi di viaggiare. Noi dentro e noi fuori, tu non mi fai più volare, no. Noi dentro e noi fuori, noi dentro, noi fuori. Noi dentro, noi fuori, noi dentro, noi fuori, noi dentro, noi fuori.